qua. Sono sempre io, Natalino. Però sono impegnato in questo momento. Natalino! CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? E ti ho risposto anche poco fa, ma se non mi senti. Perché mi sono spostato e non ti ho sentito, non ero qua. Già fa in fretta, no, non del tempo, no. Ti mando Giulio, Giulio stava guardandosi la partita, la faccia nostra. Ma quanto ne danno? 10 al giorno? Oh, Giulio, io mi guardo solo l'Italia. E boh. Perché non sono tifoso sbregattato. E io invece non conosco neanche il pallone, so che è rotondo, che si assomiglia alla terra, però non... e prende tanti calci. Quello sì. Oh, di calcio già ne capisco, perché c'era mio fratello che era bravo giocando a pallone e andavo a vederlo quando giocava lì, però non sono stato mai tifoso molto, a guardarmele in televisione le partite. Infatti, via. Guarda una cosa, tutta colpa di Natalino, come sempre. Perché diavolo non ci mettono le misure quando devi guardare qualcosa? Ma Natalino, e beh, non ti compri niente che ci sono gli sconti, un po' di sano consumismo. E cosa mi compro? Cosa mi compro? Che per comprare ci vogliono i soldi oggi. Davvero, dicevano che è tutta un'offerta. Ci sono quelli dei divani, ad esempio, che sono sempre in sconto. Comprati un divano. E ce l'ho già, e poi ci vogliono i soldi per comprarlo. Quelli te lo regalano, sono tutti i giorni lì. Oh signor, ce l'ho già il divano, mi stavo lustrando gli occhi, quando è? Ieri mi sembra, avanti ieri, già ce n'erano pochi apparecchi belli che mi piacevano, ma allo stato piccolo, mi sarei accontentato di uno di quelli vecchi, anche senza quelli con la scheda parlante, tanto per ascoltare. Ma che cosa, di divano? No, di radio, se ti ho detto mi stavo lustrando gli occhi, gatta, già ce n'erano pochi apparecchi belli. Sì, apparecchi belli, si fa presto a dirlo, poi stiamo a vedere cosa c'è dentro, magari c'è il topolino. E dopo un po' il topolino muore. Lo so, ci sono quelli che hanno l'elastico dentro, quando si taglia l'elastico non funziona più. Così. Sto guardando, vedo che c'è lì l'aggeggio in funzione, poi c'è il televisore acceso. E quante cose tieni? Il televisore me ne sono dimenticato di spegnerlo. Ah, c'è la gabbietta anche col canarino. Aspetta che giro la telecamera. Ah, ecco, carino. Cos'è carino? Oh signor, ho visto là che l'ho spento il televisore. Però mi adesso senti il canarino che sta cantando. Ma anche di notte fa così? No, di notte sta zitto. È meglio per lui, perché al posto tuo l'avrei fatto conoscere un paio di gatti. Sì, già ci sono qua, vicino. Oggi dice che oggi è abbastanza caldo, oggi a livelli proprio grossi. Lo so, cazzo, poco hanno fatto quello. Oggi mi sono immunizzato io e la 50, del tutto. Non ti hanno fatto neanche entrare, sono usciti fuori con la carabina, quella con la siringa, e hanno sparato così. Aspetta, manco sentito lo lago. Nulla. Di lusso proprio. Tra poco tocca a me. Oggi, anzi domani, 20, quindi ancora 14 giorni, dopodiché è certificato da tutta l'anno della schiava per andare all'estero. Sì che te lo danno il certificato, come hai fatto una e l'altra. Quindi adesso finalmente puoi anche uscire, non dobbiamo andare in Australia. E perché? Avete dei canguri? Ehi, se ne hanno ancora. Se ne hanno ancora di canguri. Poi boh. Che cosa interessante. Mi dice che c'è una stazione in ascolto che è molto vicina. Buonasera anche a quella stazione. Riprendi, Natalie. Beccappa, buonasera anche da parte mia. Alla stazione vicina. Ma. Quindi sì. Sono tutti scontando. Stavo pensando di mandare in pensione un monitor. Ci ho messo un'altra parte e di prendermene un altro, perché adesso sono tutti sono, come si chiamano, tutti fini e leggeri, no? Belli a tutto schermo e non sprecano con le cornici. Il mio è del 2009, quindi quando si è fatto, sono 2009, c'è già 12 anni c'ha praticamente, quindi sarebbe l'ora di cambiarlo, no? Anche se è ancora efficiente. Sai l'apparecchio che mi piaceva, l'ho anche usato, ce l'avevo un amico mio, se ti lo dico che apparecchio era, ti metti a ridere. Buonasera anche a te, stazione Fabbrava da Sassari, se mi ascolti, in compagnia di Natalino. Avanti. Benissimo, le migliori cordialità. Ti mando avanti l'altra stazione che qui con me, poi ci ripeterai la zona perché il segnale è eccezionalmente evanescente causa propagazione, sembra in macchina quasi. Riprendi Natalino. Cappa, Natalino Alfa 1 da Sassari da questa parte. Buonasera, non ho capito anch'io la zona da dove stai modulando l'amico, perché il segnale andava e veniva e c'era un rumore. Avanti ancora a te. Benissimo, Vincenzo, il mio nome è personale Vincenzo. QSL Vincenzo da Pontedera, se ho capito bene, 73, allora ti manda avanti l'amico Gianfranco, avanti Gianfranco, per l'amico Vincenzo. Sì, Vincenzo, ancora buonasera, ben ascoltato. Il segnale è molto evanescente, ogni tanto qua arriva anche qualche straniero che c'ha più o meno il tuo stesso segnale. Noi siamo in locale, io sto trasmettendo con una potenza di meno di 2 watt, quindi sto l'antenna che è master, quindi è veramente eccezionale che ci senti lì, se non ho capito male, a Pontedera. Ok, grazie per essere entrato, ti rilancio il mic per i saluti e alle prossime, Vincenzo. Vincenzo, la tua collega è Natalino, Natalino Alfa 2, anche lui è da Sassari, siamo entrambi a Sassari. Niente, segnale anche il tuo, sale e scende, allo stesso modo degli altri che ci sono sotto, quindi sono spazi di propagazione che permettono questi collegamenti. Ancora una buona serata, qua comunque c'è molto caldo, siamo alle sulle 38-39, quindi siamo tutti e due intanati. Ok Vincenzo, alle prossime, salutoni, riprendi Natali. Ecco SL. Ok Vincenzo, salutoni, alle prossime, avanti. Sì, sotto c'era anche quello straniero, è arrivato fortissimo per un tratto, poi è risceso. Sono sprazzi così di propagazione salicenti. Sì. Stavo guardando che va male. Ma perché non ci mettono le misure italiane queste? Sono una disperazione, veramente. Niente, cosa stavo dicendo, Natalino, come fate a mezzo, te lo immagini? E quando c'è la propagazione, io perché questo c'ha 3 watt, cosa? L'altro ne ha 2,5, questo ne ha 3 watt, e così, sì, ma non c'è bisogno di avere tanta potenza se non, quindi per Sassari e Sassari va bene. Ti stavo dicendo, l'apparecchio che a me piaceva, che lo usavo volentieri, era di un amico mio, quell'apparecchio lì, è lo Iaesu 7B. Scommetto che stai ridendo. Non ricordo più. Iaesu 7B. Qual è? Quello brutto. Mi sa che è quello brutto. Aspetta che me lo guardo. Iaesu 7B. Eh sì, è quello brutto. Che cazzo. Oh, mia cosa vecchia, mamma mia. Ma vecchio però mi. È ancora fatto vecchia maniera, c'ho anche aperto. Con tutti così. L'unica cosa, guarda, di buono che ha è lo smitter che di quelli analogici. Ma è proprio brutto come apparecchio, è veramente degli anni 70, inizi fino alla fine degli anni 80, quindi è uscito, la prima uscita dal 76 addirittura. Sì, a me piaceva, era vecchio, non aveva neanche un centimetro, diceva sulla scala parlante. Ma a me piaceva come fare. Ma me lo porto quando vengo a casa. Ecco con la cosa con gli apparati moderni che sono super stabilizzati in frequenza che track in banda laterale deve essere un problema adesso usarlo se non è allineato proprio in maniera perfetta, ma servita un pochettino non ti sente più nessuno. Oramai sono giusto da tenere come soprammobile, come fermacarte, ma oltre no. Lo so, no, questo funzionava bene, ce l'aveva un amico mio, ma funzionava bene quello che aveva lì. Evidentemente umano. Ho capito Natalie, però è proprio di quelli, boh, quanto varrà, 100 euro, non c'ha valori superiori, considerando l'età oramai, c'ha 30, 40, quasi 50 anni, ho una parecchiosa, cosa vuoi che faccia? Sì, tanto per ascoltare l'avrei voluto. Babbo, dai, ciao! Tanto per dare. Natalia, c'è la mangiamo. Alla solita. E a che ora? Alle 6? Sì. Babbo. Ciao. Natalia, la sua diceva, pazientare, prima virtù d'est. Già lo sai, la traduzione, sì. Non ho capito bene, traduci. La pazienza è la prima delle virtù. Ebbè, tu si mette a parlare quando c'è il microfono piazzato, sembra che te lo faccia apposta. No, sono... riconosci, sono fatte così, ma ne è capitata una che stavo facendo al lavoro, non riuscivo a capire il problema che c'aveva, perché mi parlava sopra, continuava a parlarmi sopra, io sì, ho capito, cioè non ho capito niente, e questa continuava, la macchinetta, no? Allora, fiato, no, un attimino, premiamo il pulsante di reset, azzeriamo tutto, rinizi tutto da capo, parlando molto piano. Se è possibile il rallentatore. Sì, infatti poi quando inizi a passare sulle questioni tecniche, allora è veramente triste perché non ci capisci proprio una mazza. Vabbè. La risoluzione è la stessa, però è molto più leggero. Tutta colpa di Natalino, come d'altronde sempre, no? Sì, è segreto. Capo, ho visto uno di quegli apparecchi militari, però la M non ce l'ha maledetto, c'ha l'FM solo. Un watt di potenza con la cornetta, bello, mi muovono, solo che in AM non si va. No, quelli vanno, poi hanno frequenze da frequenze strane, da 26 fino a 45, 48 giù di lì, con le militari, parole povere. E sono in FM. Potenza un watt, sì. Perché praticamente servono, c'hanno il coso, no? Come si chiama, gli appendici, c'hanno i loro cavi, metti quel cavo, poi metti l'appendice e diventa veicolare oppure diventa base anche, e magari te ne da 50, sono così. Ma io ne ho regalato di meglio e comunque di quelli, quindi a parte che sono tra l'altro ancora in vendita, che avranno l'HF, tutta la banda, quindi la loro antenna, l'accordatore, la batteria che era un po' così così, però con quello lì comunque avevo regalato. Da fuori, da qua fuori, mi ha risposto in 10 metri l'Argentina, ma era notevole. Me lo posso immaginare, è solo che non sai quale che vanno bene e dove buscarli quegli apparecchi, capito? Quelli che funzionano per noi, diciamo così. No. Quelli lì qua ti dicono che ci basso, Natalino, capito? Perché sono tutti molto stretti come banda, e quelli non sono fatti per fare DX, sono fatti per comunicare e basta. Quindi hanno delle caratteristiche di robustezza eccezionali, di prestazioni interessanti anche con le basse potenze, però hanno degli scopi ben precisi, molto diversi da quelli di uscire sparati con la radio tipo trombone e quelle cose lì. Tra di loro si sentono chiarissimi, se li senti tra due apparati uguali, sono micidiali, mentre invece se la scuri con un baracchino dici non ti sento, la radio è bassa, capito, sono fatti per cose particolari. Infatti. E io tra poco quando me ne ricordo, quando ne ho voglia, anche perché mi devo cercare la scatola, devo dare un 2000, che oramai, per quanto bello, per quanto pienamente funzionante, eccetera, eccetera, eccetera, ho dato poco, tra l'altro. Fatto il suo tempo, facendo poco, lo uso a volte così, giusto come monitor, c'ha tutto, già lo sai, il 2000, oltre ad essere bimanda, è anche un HF, o viceversa, come preferisci, insomma, c'ha un po' tutto. È aperto, quindi c'è un'ampia gamma di esplorazione, perlomeno di ricezione. Due ricevitori all'interno e quindi va molto bene, revisionato e tutto. E così. Lo so, io ho dato anche, avevo anche l'857 io. Quello era bello, quello che avevo io, tutto configurato, mi aveva aiutato un amico a configurarlo, in qualsiasi posto che andavo lui era pronto, tac, e funzionava benissimo. Sì, è un po' grandicello, ecco, come apparato, è un po' grandicello, stavo cercando come, a me gli apparati grandi non piacciono, poi se c'hanno tanti giocattolini, troppi pulsanti, un conto è se c'è il menu e non c'è via davanti e quindi non ti impedisco, un conto invece se inizi a avere tasti, tastini, tastinine, guarda, ieri ne avevo uno che ho provato perché ho fatto un po' di PSK per vedere un po' come era la situazione. Diciamo dall'Inghilterra, poi uno dalla Germania mi ha risposto con potenze proprio terra a terra, e ho utilizzato un apparato navale con l'antenna navale, uno spettacolo, premo sul pulsante, mezzo secondo per la cordatura su qualsiasi frequenza, da 0, no, da 1,5 a 50, quindi istantanea, accordatore dal palo, però è un apparato utilizzato anche come navale, no? Dalla Vertex, Motorola, come preferisci. Però forse hai capito male, io sto parlando dello IAESO, quello piccolino, mica, cioè, l'avevo anche in macchina, l'857, FT857, mica ce l'ha anche Marco in macchina. Ah, ho capito, sì, ce l'ho avuto anch'io, Natalie, anche se, anche questa è anzianotto, però questa andava bene, questa era di banda più HF, sarà questo, non so che non me lo ricordo, qual era l'857, quello di banda è identico alla mia, perché c'erano due versioni, poi c'era l'altro che era soltanto HF. No, questo c'aveva HF, VEU e Simetri, tutto avevo. Sì, sì, era quello che avevo io, me lo ricordo. Sì, adesso non costa neanche molto. Se vuoi ti dico anche, cioè non lo so se lo fanno ancora, credo di sì, perché ci sono le versioni, le ultime versioni. Vediamo un po' cosa mi dice, e su, dove, su quale montinaggio lo troviamo questo. Ci vuole solo 400 euro, tirano anche l'accordatore. Con 400 euro, io l'avevo pagato 750, mi sembra, solo la Parigi. Sì. Mi guarda, te lo è 857, primo modello, tanto secondo me che ci abbia questa grande differenza, più accordatore originale che di norma costavano un pacco, è esaurito però, 400 euro, usata in condizioni eccellenti, testata, eccetera, eccetera, ovviamente se l'hanno subito comprata perché l'accordatore originale costa abbastanza. C'era Vittorio sempre in macchina, lo usava per... adesso non lo so se c'era ancora, ma penso che sì. Ma Marco ce l'aveva anche, il mio vicino. Io avevo anche il kit di separazione, io ho dato tutto. Praticamente ce l'avevo nel cofano e avevo solo il display davanti. Sì. Ma questi, per chi non è fissato, diciamo, come me, convengono di seconda mano, così almeno li fai da mattare, sono anche in garanzia. Quando te lo vendono lì, se comprati direttamente invece è tutto un altro discorso, perché non sai cosa trovi, se fai la fregatura o meno. Lì almeno c'è la garanzia, sei tranquillo. Niente, per fare ascolto Natalie, per usarlo così, va più che bene, ecco. Sì, ma anche lo potevi anche usare, solo che Cata, lo sai che microfono andava bene a quell'apparecchio lì, Gianfra, gli aveva agganciato il Turner più 2 da tavolo, una bomba era. Sì, ma dipende da cosa ci mettiamo, sto guardando uno, guarda, questo cosa ho già visto, se ne vuoi uno nuovo, tutto digitale, tutto tasti, mezzo, cioè tutto cinese, 540 euro, 544, lo hanno abbassato di prezzo, HF, VHF, HF, SDR Radio, c'è tutte le bande, da 160 a 100, nuovo, questo è nuovo, non ho capito che microfono c'ha questo qua, ultra portatile, quindi anche le batterie, però sembrava un base, tutto cinese. Quello c'è l'elastico dentro. Può darsi. E c'è anche un ricevitore qua, 90 euro. Vecchio quel cucco con le scale di quelle radio che c'era una volta, no? Meccaniche. Io capisco. Lì ci viene nonno. E così mi ce n'è, no, questa è roba CB. Guarda, c'è anche un 920 grande, però grande di quelli scatoloni, no? Sempre gli Aisu 690. Poi cosa ci abbiamo? Piano piano anche questi oramai, man mano che si va avanti, diminuiscono, perché la gente che c'è a radio sta diminuendo e quindi c'è poca roba. Sì, infatti. Oh signor, è che non c'ho posto qua, dove me lo metto un apparecchio così? Uno tipo l'857, che per le mani mi dovevo tagliare invece di darlo. Quello ci sarebbe stato più, vedi? Questo che sto usando io andrebbe bene. Bene. Sarebbe il tuo sogno, ne sono sicuro. Quanto è grande. Praticamente te lo puoi portare anche a letto se ti fa. È grosso, sarà un paio di centimetri, 5 centimetri forse. C'ha in caso di necessità la sua batteria, che lavora in tampone. Tutto digitale, c'ha HF, WiFi, Bluetooth, trigger track, vari modi di trasmissione, eccetera. È un ottimo ricevitore, ovviamente, GPS, solo che costa caro, costa un pochino caro, però sarebbe una cosa altro che baracchino, neanche la metà, tutti i filtri che vuoi. Puoi anche mettere un filtro talmente stretto da annullare il corrispondente. Figurati. Però c'ha quel difetto grave. Ah sì. Sì, Nathalie, ce l'hanno tutti. Tutti quelli che ho io hanno quel grave difetto. Che quello lì che stai pensando. Gravissimo difetto quello. Il prezzo. Quanto costa, tanto per curiosità, Gianfra? Tanto. Non te lo dico, ma tanto. Beh, ne ho anche qualcuno economico, c'è un ricevitore che costa 2,5 ad esempio. Un ottimo ricevitore. Va da zero praticamente a 3 giga è qualcosa, sempre con vari sistemi digitale compreso, però è abbastanza economico, tra virgolette, 2500 così. Sì, considerando che è solo ricevitore, non è molto, dai, ma è tra gli apparati economici. Figurati quelli costosi. Vabbè, se vuoi un Rolex Schwarz 30, 60, scegli tu. E quelli sono buoni. Sono a livello, insomma, a livello grosso. Tu vuoi spendere poco, quanto? 110, 120 euro massimo. No, anche di più. Adesso vediamo se cosa riesco a... Che devo tenere conto anche del caffino, che bisogna togliere tutto, secondo cosa mi prendo. Sì, ce ne sono, Nathalie, ma sono grandi, capito? Adesso stanno tutti facendo piccoli, sono grandi, sono barrasoni, sono perché c'è tanto spazio, è occupato la metà di una stazione, c'è questo, guarda, tutti in garanzia ovviamente, 529 euro, che è il TS450, però è un armadio. Io lo conosco, ce l'aveva un amico quello lì, non mi è mai biazzuto. Perché è grande, Grande, pesante. Infatti. No, TS450, TS450, sì, già è quello. ci ho penso. Poi cosa ci abbiamo? Guarda, c'è questo, ecco, io ce l'ho avuto, è un apparato che non ti dice niente, però è onesto perlomeno, è la Linco DXS38E, semplice, proprio spartano, e costa 500 euro, è HF da 0 a 30, diciamo ce l'ho avuto per un paio d'anni. Ed è un apparecchietto onesto, dai, senza grandi pretese, però faccio dovere. È della Linco, non troppo grande, ma neanche troppo piccolo. 308 hai detto? La Linco DX-SR8E. Oh, non lo so se è nuovo addirittura. Sì, forse è nuovo, non sono sicuro. Sì, perché costava 650, l'hanno diminuito a 500 praticamente. Ciao Fra. Ehi, ciao Fra. Ciao, ho cambiato il microfono, più forte la modulazione questa. E questa è modulazione CB proprio. Boom, col tasto, sparata, prepotente. Modulazione CB, quella di ieri era modulazione professionale a livelli bassi, cioè bassi, a livelli ottimali. Vabbè, questa non ha niente di diverso. Questa è l'MC85, capito? Spinge un po' di più sicuramente. Va bene, chiara la modulazione, buona. Sì, è quella di Claudio Sparviero, questa è la sua classica, personalmente lo sai, a me mi piaceva da ieri perché innanzitutto non c'erano i sottofondi, perché sento che c'è qualcuno che parla sul fondo qua, di là era un'altra cosa, credo che ci fosse anche Natalino ieri che ha fatto il controllo. Natali, che ne pensi, giusto? Adesso sembra quel pedibella di Spalliero. Beh, io sempre quello del VS, non posso cambiare. No, avevo dentro la scatola 85, adesso che lo attacco. Vediamo se migliora la modulazione. Effettivamente è più forte, spinge di più. Però Natali, ti ricordo che io non sto usando il K, sto usando lo Iaesio, capito? Quindi chiaramente non è che spinge molto. Con questo spinge un po' di più, tutto qua. Va bene, l'importante è che sia sempre Claudio Sparviero. Vi saluto e vi abbraccio, si sta così bene, al fresco, bello proprio, temperatura ambiente. Quanto c'hai fuori qua? Allora, io esattamente fuori, in veranda, perché c'è un vento caldo di Scirocco che non si può stare, ci sono circa 36 gradi, circa. È inevitabile, ha detto che eravamo in zona rossa proprio dal caldo. No, chissà quanto dura, ma penso che duri un bel po' sta cosa. Ma non penso comunque, perché ha dato l'ingresso di maestrale di settimana, quindi spero che arrivi un po' di fresco, o perlomeno che non ci sia questo scirocco perché è fastidioso. Io oggi non ho combinato proprio un accidente. Due cosettine stamattina presto, prima di iniziare il caldo, e poi sono sempre dentro casa. Sempre buttato dentro casa a fare altre cosette, però al fresco si sta bene, c'è una temperatura abbastanza buona all'interno, abbastanza buona. Ok, dai, allora vi saluto, buon QSO, continuate pure, io vi faccio queste due cosette e poi già ci sentiamo dopo. Avanti Natalì. K, comunque spinge ugualmente, anche se non è K, già sta spingendo. Sì, beh, l'85 sì, il 60 con lo Iaesio non è che spinga molto, il suo originale non spinge niente, spinge molto in banda laterale, però in AM non va, e quindi ho trovato questa soluzione, siccome c'ho gli adattatori, c'ho l'adattatore primo di Iaesio, gliel'ho messo. Vabbè, l'importante è sia buona la radio e ci sentiamo come sempre, intanto siete abituati alla mia voce, dai. Va bene, vi lascio, vado a fare qualche cosetta e poi ci sentiamo dopo, ok? Vai Gianfra. Guarda, appena entrato, guarda, ti stanno già chiamando da fuori anche. Poco fa ci ha risposto uno che adesso mi sono già dimenticato la zona in cui era, con due fatti mi sentiva. Prova se ti sente, se ti dà un controllo. Guarda, io sono con 10 watt modulati, portante in bianca ne ho 5, fatti il conto, ho 5 watt, 10 modulati. Chi è che chiama sul canale 10 avanti? Vedi che non arrivo da nessuna parte. Dai, ci sentiamo, vai Natalia. Già arrivi anche alla Landi che arrivi tu. 5 watt, ciao, già va bene. Sono finiti i tempi delle potenze grandi. Guarda, ci sentiamo, a me fa piacere questo. Poi per il resto è noia, come la canzone di Califano. Non ho più sentito a Franco, deve essere in letargo, cazzo. Una volta lo sentivo anche sul 23, ma ora non lo intendo più. Salutatemelo se lo sentite, dai. Riprendi Gianfra, ci sentiamo dopo. Oh, c'è una propulsione strana. Non c'è quel remma in compenso, c'è quella propulsione bella. Ogni tanto arrivano forti, poi spariscono. Va bene, siamo qua se c'è bisogno. Siamo sempre qua, come vecchi, no? Ci abbiamo la panchina. Ci manca solo quello per dare piccioni qua, più che piccioni ci sono colmacchie e colombacci. Cosa hai detto? 308 DXSR 308, così? 8308. Sì, Natalia, adesso non inizia a farmi questa domanda, è difficile, lo sai che io dopo 5 minuti mi ho dimenticato tutto. Ed è la... non me lo ricordo più. No, è proprio fatto, Natalia. Ehi, però costa di più questo qui. Ecco qua, vediamo a vedere. Poi c'è l'SR8. Guarda, erano due modelli, mi ricordo. Uno era solo ricevitore e l'altro era ricetrasmettitore. La carcassa è identica. Sul ricevitore ci avevamo messo un tappo, in parole povere, dove c'era il microfono. Quindi, ma non c'è niente tu perché per ascoltare ascolto in HF, in quelle lì, io a pensare, guarda, l'anno scorso ho dato la bellezza di due apparati proprio, un ricevitore e un coso, guardate, l'hanno venduto, neanche arrivato l'hanno venduto, per dirti, no? Io ho capito. No, le HF mi mancano. Purtroppo. È così. Ma no, vabbè, qua magari occasioni non se ne trovano tante. Vediamo cosa c'hanno questi. Ogni tanto c'hanno qualche cosa, qualche... ma piano piano sono presi anche cari qua, non gli dare quei soldi per questi apparati usati, tra l'altro. Sì, lo stavo diminuendo, è stato più usato. Beh, una bella chiavetta nata lì, attaccata al computer, no, non ti piace, no? Non riesco a sintonizzarmi. Sento il rumore, vado a sintonizzarmi, però non riesco. Qualche volta ci sono riuscito, a me mi piace con la manopola si ca e andaccia a sentire, no? Vecchia scuola. Ce l'ho avuta, amico, la chiavetta stai dicendo tu. Però, boh. A me, ripeto, ne ho dato tanti. Ne ho dato veramente tanti. Non parliamo di portatili, portatilini, così anche a regalo, guarda. Ne ho talmente tanti che li ho subito. Perché non è la roba che comprata sì, più per curiosità che altro, per vedere se funzionavano gli altri grossi, ma per carità, no, non c'hanno niente a che vedere. sembra che veramente ci sia pochissima roba, come usato. È uno di quei radioni vecchio tipo, dico proprio radioni che c'erano anche l'HF con la banda laterale. Ehi, tanto per ascoltare già vanno bene, qui per parlare bisogna questo. Beh sì. Guarda, siamo scesi da Cerri addirittura, solo due apparecchi, un apparecchio, esatto. Si sta veramente diminuendo. Prima catai qui 140, te li tirava una faccia, vai a comprarli adesso. Il più poco 300 ne vogliono. Sì, ma non gliele darei neanche sotto tortura, guarda. Guarda, ti compri uno. Almeno con la garanzia, se non altro. Perché certi sono tutti toccati, cioè ti costa più un intervento tecnico che l'apparecchio. E infatti, poi è poco più di un baracchino. Se fosse stato un 440 è un'altra cosa. Quello ce l'ho avuto e so cosa è. È meglio del 140, va. C'avevo tutti i filtri, la scheda fonemi, c'avevo, schiaccia voltata e si usciva la segretaria. L'accordatore automatico avevo, nel 440. Quello era bello. Ti devi comprare un qualcosa per cui che non ti impegni, dai, secondo me per te un ricevitore fa più che bene, l'importante è che intorno non c'è disturbi strani, ecco, disturbi impulsivi, perché sennò è una cosa antipatica. Lo so, no, non ne ho disturbi. Adesso se così no, poi anche un tipo all'esterno bisogna vedere. Qua c'è questo, il Dexum lo conosci, sono dei ricevitori cinesi, come oramai è quasi tutto cinese, che sono abbastanza buoni, hanno anche la banda aerea. Quanto viene? 250 euro credo, nuovo, questo è nuovo, è 250, ti dirò, io quando vado al mare eccetera usavo un degent che è una radiolina praticamente, ma tu devi vedere come sente questo affare, sentiva la 27 benissimo, chiara, le HF in banda laterale, tutto quanto, ed è un apparecchio, insomma, che va bene comunque, se devi fare ascolto e non c'è proprio spazio, non so come si comporti però a casa, capito? Un conto è provarlo fuori, dove i disturbi non ce n'è, in spiaggia, al mare, eccetera, e un conto è tu che sei lì, in città, con disturbi di ADSL, di modem, di oscillatori antifurto, che più ne metta. Capito Natali? E quello ormai sono cosa compri, poi non ascolti niente davvero, cioè ascolti disturbi e basta. Oh signor. Certo che in campagna era un'altra cosa, avevo le antenne, avevo tutto. La sua Natale, sai che il detto, come dicevano, dal senno di poi, ne sono piene le fosse. Quindi così. Note 50, cioè, ma costa T7 50, è grande, 580 euro. E poi volte sotto il 101 è meglio quello là. E poi no, c'è il suo prezzo, è anche 100 euro in più a seconda. Quindi Natalia è una, guarda, se c'è una buona DSL ti posso consigliare anche di ascoltare via quei ricevitori che ci sono, no? Che sono online, e di lì ascolti bene in tempo reale. C'ho la fibra, c'ho. E allora Natali, l'ascolto lo puoi fare. Se conosci i siti su cui andare, ce n'è uno anche dedicato alla 27, è di Roma, Roma 4 si chiama, e lì senti tutti i romani, sono tutti in banda laterale, ti imposto il ricevitore e va che sei un signore. E li ho ascoltati, qualche volta li ho ascoltati, quindi... Puoi ascoltare anche le comunicazioni via satellite, col satellite lì ha lanciato, non ricordo chi. E quello lì è un radioamatore sardo che li manda in aria dove stanno. Quindi va sul suo sito, non c'è da fare niente, deve solo cliccare e ascoltare. Altre cose, considerando la situazione che c'è prima dell'antenna, tic e track, a un certo punto non ti rompe le palle nessuno e ascolti ugualmente, ecco. Le 6 e 15, evidentemente non è partito e non c'è neanche un attimo di pubblicità. C'è i due tempi, nei due tempi c'è la pausa. Giulio entra quando c'è la pausa. Così, non c'è neanche la portante, visto? Perché non c'è Giulio? Noi non contiamo niente. O quello lì è morto dalla disperazione, gli si è frasigato il dito. No, proprio non c'è Giulio. Non ci piglia gusto a metterla a noi. Vuole a Giulio e basta. Si è innamorato di lui, cosa vuoi finire? E come diceva quello, meglio un gusto che 100 malanni, no? Infatti. Adesso glielo dico giù, entra più spesso, non ci possiamo divertire quando mettono la portante, grazie, non ci sei tu. Ma non stava neanche pensando Marco, Marcolino, dove in giro a casa, dov'è? Anche lui assente. Assenteista è anche lui, cosa in giro, che mandrone, sarà a casa, boh, si scarica questi film, si scarica e non entra a parlare, boh, è un crumiro, se stai ascoltando sei un crumiro. Com'era? Vedi film a tradimento. E allora? Sarà riversando, non so, ultimamente stava riversando i film dalle cassette, non mi ricordo dove, boh. Riprendono queste passioni e abbandonano la 27. Io per non fare la fatica di fare un lavoro, anche perché la qualità poi che ti esce è ridicola, le ho messe tutte in fila quelle cassette lì, ho preso la carabina, e le ho sparate, dopodiché messi nella differenziata via. E infatti poi quelle cassette si inceppavano molte volte, che non un macello. Ma figurati, adesso che ho la possibilità di... ho due abbonamenti, sia Netflix sia Amazon, perché ho il Prime, no? Nonostante tutto, a volte ho talmente poco tempo che non riesco neanche a guardare quelli. Ogni tanto, facendo oramai addirittura incorporato nei televisori, no? Quindi basta premere il tasto e tappare subito. Ti scegli il film che vuoi, quelli ne hanno voglia, guarda, mi stanno massacrando, ogni tanto mi arrivano le mail. Caro Gianfranco, ci siamo accorti che non stai usando il coso degli ebook, che sarebbero quelli, i libri digitali. Non c'ho tempo, mi arriva quello. Gianfranco, guarda che c'hai anche l'abbonamento per la musica. Ho capito, ma se non hai tempo, cosa mi mandi le mail? Non li sfrutti, capito? Siamo nella situazione, ci abbiamo tanta roba, però non manca il tempo. Se arriverò alla pensione, chissà, vediamo un po'. Ma i colleghi che ci sono andati mi hanno detto che ne è poi, alla fine, tra una cosa e l'altra, neanche anche di meno di tempo. Sì, infatti io ce l'ho Netflix, ce l'ho nel telecomando, poi c'ho YouTube nel telecomando del televisore, insomma. Alla. Magari entro alla bolla. Natali, chiama la tua, io proprio. Già non li faccio in HFDX, sarebbe il colmo veramente fallin in 27. E ieri stavo leggendo più che ascoltando un questo in CV doppio, dovevano essere anziani, e stavo dicendo anche lui se n'è andato, siamo sempre di meno. Evidentemente qualche anziano Silenchi è diventato. Infatti, poverato. Ma avevo un bel tocco io col tasto. E adesso hanno fatto questi tasti, dato che idee ce ne sono poche, ogni tanto ognuno se ne torna di fuori qualcuno, ci sono questi tasti nati lì che costano 500 euro il più economico, fatti tutti a mano, tutti così. È più il tasto che poi il coso di usarlo, guarda, saranno il massimo della precisione, dell'eleganza, eccetera, però a quel prezzo credo che li prendesse, se non ricordo male, Media World, cioè quei tasti fatti da un radioamatore artigianalmente e su misura. Io c'avevo il tasto verticale, ne ho avuto parecchi. Un mio tasto l'avevo prestato a Antonio, c'era lui. C'avevo il ticalino per sentire, no, cosa battevo. Mi sembra mi ha sentito anche Claudio, mi aveva sentito Marco. Io ce l'ho qua diretto, non mi ricordo neanche un suo, ce l'ho direttamente sull'apparecchio, automatico, però non mi dire come si usa perché non me ne ammento più. Figurati, no, io c'avevo il tasto verticale, bello, c'avevo un bel tocco, chiaro quando battevo, ed ero anche veloce. E nei tasti ognuno ha la sua firma, è come la scrittura praticamente. Se c'è un operatore abile riesce a capire chi è anche, capito, senza bisogno di dire il nominativo. Certo, sono cose d'altri tempi, ormai ci sono sistemi molto più veloci, molto più a chi piace è giusto che lo usi, ecco, tutto lì. Anche perché comunque non ricordo di altre epoche, di altri, quelli hanno visto tante cose all'inizio.